spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. 14 minuti dopo le 8, ben ritrovati anche oggi, 20 agosto. Sarà un viaggio che ci porterà sui banchi di scuola, soprattutto oggi, quei banchi di scuola italiani, quelli dove quando inizia la scuola, sì, ci sono gli studenti, non si sa se di fronte ci saranno docenti, quanti ce ne saranno, un disorientamento che non risparmia nemmeno quest'anno. Le famiglie dovranno abituarsi ancor più degli altri anni a vedere cambiare in continuazione i docenti dei loro figli, visto che in Italia un insegnante ogni 7 è precario e la scuola continua a essere trattata come la Cenerentola. I supplenti sembra che mancheranno a migliaia. Non sono felici nemmeno gli insegnanti di ruolo, che affrontano il blocco dello stipendio per il quinto anno consecutivo. Tutte tematiche che affronteremo alle 8:30 con i nostri ospiti, per capire soprattutto se invece di affrontare un'emergenza all'avvio dell'anno scolastico ogni anno, si possa questo problema risolvere in maniera sistematica, definitiva, decisiva. E parleremo poi di altri banchi di scuola, quelli dove i bambini non vengono più affrontati con lui, lei, con questi pronomi personali che indicano il sesso. Proprio così, il genere sessuale è stato abolito in alcune scuole svedesi e si parla sempre di più di questa fusione dei sessi, di questo avvicinamento di genere, perché potrebbe essere un'arma per eliminare le discriminazioni, evidentemente ancora molto diffuse. Ma è davvero la risposta? Ne parleremo con dei pedagogisti italiani e con delle donne che hanno affrontato e vinto il problema del cosiddetto soffitto di cristallo anche qui in Italia. Questo sarà il nostro tema delle 9. Se volete prenotarvi per le vostre telefonate, per le vostre opinioni, per i vostri non solo spunti ma contributi al miglioramento delle cose, il numero da comporre è l'800 24 00 24, oppure l'SMS 349 238 6666. Australians, all let us rejoice, for we are young and free. Golden soil and wealth for toil, our home is girt by sea. Josephine, buongiorno, welcome. Buongiorno. Come avete capito da questo inno australiano, questo è il paese dove andiamo oggi nella nostra rubrica Visti da Fuori per incontrare loro. Ce ne dicono di tutti i colori e non sempre sono osservazioni gradite. I nostri corrispondenti che osservano l'Italia da dentro, portando però degli occhi diversi, non solo degli occhi e uno sguardo diverso, ma esperienze di vita completamente differenti che a volte pungolano, a volte stimolano, perché quelli che a noi appaiono come problemi insormontabili a loro appaiono problemi sì, ma molto risolubili, per cui si interrogano a volte su una certa dose di immobilismo, di paralisi che caratterizza questo paese. Vorrei fare una precisazione però, Josephine, tu e non solo siete l'esempio di quanta passione mettiate nelle vostre critiche e nei vostri report, nei vostri pezzi o di giornale o di televisione, di radio, blog, internet sempre più diffuso, ma avete un terreno comune, un grande attaccamento, un grande amore a quest'Italia. Va precisato perché spesso i nostri ascoltatori se la sono così presa per questo sguardo sagace e che è stato scambiato per irrispettoso. Tu quando sei arrivato in Italia, Josephine McKenna? Sono arrivata 6 anni fa, ma la prima volta sono venuta in Italia nel 1981 come turista. Quando sono venuta questa volta ho scelto l'Italia perché mi sono innamorata dell'Italia, ho scelto l'Italia per la mia passione del paese. Per quali testate lavori? Io lavoro per tanti canali televisivi, lavoro per gli australiani, Channel 7 Australia, ma anche scrivo per i giornali in Inghilterra, in Australia, in America, anche le riviste. BBC, CTV Canada, The Telegraph. Essendo tu anglofona, naturalmente puoi servire un vasto pubblico, diciamo così, di testate e di editors che chiedono in prevalenza pezzi sull'attualità più stretta, hard news, politica, papa. E poi tante volte invece spaziano nel costume, nel domandarsi, nel chiedersi come possano in Italia convivere tante tradizioni, a volte scarsa innovazione, a volte genialità, insomma come possa l'Italia continuare a sorprendere. Gli inglesi, ci spiegavi, vogliono soprattutto hard news. In generale vogliono hard news, vogliono sapere di più della politica, di Berlusconi sempre, del nuovo Papa, tutte le cose quotidiane, ma anche c'è molta domanda anche per la moda, il cibo, i vini, i nuovi posti da scoprire. Gli australiani per esempio vogliono venire in Italia spesso. Conosco tanta gente che viene non per la prima volta, vogliono tornare, vogliono scoprire gli altri posti che non hanno visto prima. Cioè, al di là delle solite note mete, Roma, Firenze, Venezia, cosa c'è da vedere? Tu naturalmente fai anche un po' da Virgilio quando fai la giornalista. Ora, cosa hai consigliato loro? Quali sono dei posti magari un po' meno noti di cui ti è capitato di scrivere, che ti hanno colpito? Ma gli australiani amano tutte le cose che non si trova in Australia, come l'arte, architettura, la storia, archeologia ovviamente, ma come gli italiani noi abbiamo anche una passione per il mare, la costa, le spiagge, e vogliono sapere anche di più di questi posti meravigliosi. Ovviamente ce ne sono tanti in Italia. E recentemente, per esempio, ho scoperto molto in Sicilia, e magari nel futuro gli australiani vogliono sapere di più di questa isola bellissima. E ti dovrai concentrare lì. E a proposito di Sicilia e dintorni, abbiamo letto stamattina non solo di un altro barcone di immigrati che aveva come destinazione l'Australia, di questi viaggi alla speranza, un punto di contatto, se vogliamo, con quanto sta succedendo in Italia. In Australia è stata avviata una politica repressiva contro questi viaggi che tra l'altro anche recentemente hanno dato origine a delle stragi. 5 giorni fa il vostro premier aveva annunciato tolleranza zero. Ecco, questo è un altro punto di contatto tra italiani e australiani. Questa, tu hai osservato in alcuni dei tuoi articoli, questa insofferenza crescente, questa erosione della solidarietà. Devo dire, questa politica non capisco per niente. In Australia il dibattito politico è dominato adesso su questo tema, e per un paese che nel passato è stato molto generoso, ovviamente abbiamo tanti italiani che sono emigrati negli anni 50 per esempio, ma adesso dalla destra alla sinistra tutti sono proprio d'accordo, vogliono bloccare tutto, c'è un'intolleranza contro tutti i rifugiati che vogliono venire, e non capisco per niente. È più difficile capire quando sei molto lontano, devo dire. Da dove vengono i rifugiati che chiedono asilo in Australia? Ci sono trafficanti in Indonesia, e tanti vengono dall'Iraq, dall'Afghanistan, dal Medio Oriente, attraversano tutti i paesi per arrivare in Indonesia e poi imbarcare lì, e questo è anche un problema. La linea del Premier dunque è durissima. Vogliamo mandare un messaggio ai trafficanti di esseri umani, fermare questi viaggi della speranza verso l'Australia, sì. Troppi annegamenti, troppi affondamenti, troppe persone innocenti che hanno perso la vita in mare. Poi ricordiamolo, elemento non a margine, elezioni dietro le porte. Quando si vota in Australia? Si votano il 7 settembre. Anche perché l'economia è stata molto forte recentemente, ma adesso rallenta un po', e forse questo ha anche aggiunto qualcosa in più a questo dibattito. Ora, tornando ai tuoi pezzi invece letti in Australia, consumati in Australia, sull'Italia, tu ti sei soffermata a proposito di economia sulla mancanza di speranza, mancanza di sogni che hai notato nel segmento giovanile della popolazione italiana. Quali sono le differenze tra un giovane italiano e un giovane australiano? Secondo me c'è una differenza molto forte, perché qui spesso conosco tanti giovani qui che mancano sogni, che mancano speranza, che sono molto pessimisti. Invece in Australia i giovani vogliono fare tutto quello che vogliono fare, hanno una percezione che tutto è possibile nel futuro, vogliono studiare, vogliono lavorare, tanti lavorano mentre studiano all'università, lavorano in modo part time, viaggiano spesso in Europa, c'è un altro modo da vedere il mondo, tutte le possibilità. Tu hai fatto notare questo, cioè lavorano già mentre studiano, lavorano part time naturalmente, quindi si responsabilizzano, cioè guadagnano i propri soldi. Hai notato come qua non sia così diffusa questa pratica del summer job tra gli studenti, anche se molti lo fanno, però cominciano soprattutto all'università, mentre nei paesi anglofoni si comincia da molto prima. La realtà è che qui anche famiglie che hanno provato a fare lavorare i loro ragazzi prima, perché i ragazzi lo chiedevano, perché i ragazzi si sentivano pronti per, si sono trovati di fronte a dei blocchi burocratici e di legge, per cui certi proventi non si potrebbero dichiarare e di conseguenza il ragazzo non può venire impiegato nel lavoretto. Questa è... ma l'altra cosa, Irene, l'altra cosa che sono, secondo me è molto importante, senza questa tradizione di lavorare così non si può anche creare il sogno di stabilire un'azienda, stabilire qualcosa da sé. E questo anche è una cosa importante, avere un sogno dopo l'esperienza del lavoro, questo è anche importante. Una scuola di indipendenza, dunque, questo lavoro sì. Giovanile che da noi provate, è veramente bloccatissimo, difficilissimo e da ottenere e da portare avanti e poi da dichiarare, a meno che uno lo faccia in nero, cioè ti si spinge in quella direzione. Senti, Josephine McKenna, la tua storia personale straordinaria, perché tu sei arrivata qua ed eri già grande, diciamo così, avevi già 40 anni, perché l'hai fatto? È difficile spiegare, è una questione di amore, amore per questo paese. Ho parlato dell'Italia per 20 anni, alla fine ho detto guarda, devo andare, basta. È sempre una passione per la lingua, la cultura, c'è sempre qualcosa da scoprire qui, è un paese bellissimo. Magari con un futuro molto positivo. E sei arrivata e non avevi nemmeno un lavoro, hai lasciato tutto? Sì, ho lasciato tutto. Cosa hai lasciato? Appartamento? La famiglia, i mobili, tutto. E sei arrivata qui e pian piano sei riuscita a costruirti una rete di corrispondenze, sì, che poi sì, ti ha sì. permesso di vivere. Contenta? Lo rifaresti o sei pentita? Molto contenta, sì. Molto contenta. Grazie a Josephine McKenna, è grazie. Una delle firme che racconta agli altri quello che accade qui, non solo in ambito politico, ma a volte ancora più importante, più decisivo, in quei piccoli ambiti della vita che poi contribuiscono a crearsi un'immagine del paese. Collabora con 7 network in Australia, con The Telegraph nel Regno Unito e anche con CTV Canada. spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Cominceranno il 5 settembre le scuole, no? Non tremate, questo è in Trentino Alto Adige e c'è da scommetterci, si faranno trovare prontissimi in quella regione, ma non per tutte è così. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 8:31, stiamo prendendo in esame il rischio caos docenti. Ancora una volta cattedre scoperte, l'anno scorso inizio anno erano 24.000, quest'anno il Ministero lancia messaggi rassicuranti, ma la situazione sembra piuttosto critica. Perché? Cosa succede? Per scoprirlo andiamo, buttiamoci nel mondo della scuola, questa scuola bistrattata un'altra volta. Tutte le nomine dovevano essere effettuate entro agosto e come andrà a finire? Non ci sono notizie per ora di immissioni in ruolo. Possiamo essere ottimisti? Lo chiediamo a Domenico Pantaleo. Buongiorno, benvenuto. Pronto? Pronto Domenico? E allora giriamo la domanda a coloro che poi con questa mancanza di docenti dovranno fare i conti per organizzare non solo le cattedre e l'attività didattica, ma anche giustificarsi di fronte ai genitori che ogni anno devono abituarsi a vedere cambiare in continuazione i docenti dei loro figli. Sto parlando dei presidi, dei dirigenti, come vengono chiamati oggi, dirigenti scolastici. Ringrazio e saluto naturalmente Antonio Petrolino, il dirigente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professor Petrolino, lei tra l'altro è responsabile dell'innovazione legislativa e cercheremo di capire insieme a lei se questo problema si potrebbe... della sua associazione, chiaro, se questo problema si potrebbe, si dovrebbe risolvere una volta per tutti e con quali interventi. Intanto ci siamo chiesti, possiamo sperare in un avvio d'anno migliore del precedente quantomeno, secondo lei? Ma secondo me no, ma non sarà neanche sensibilmente peggiore. Purtroppo sono problemi che ci ritroviamo ogni anno sostanzialmente immutati proprio perché non cambiano le condizioni che li determinano. Quindi avremo le solite 2-3 settimane di alternarsi di supplenti fino alla stabilizzazione. Non credo che sarà peggiore degli altri anni, ma sicuramente non sarà migliore. E come si potrebbe una volta per tutte risolvere questo problema? Tra l'altro quest'anno genitori, presidi, studenti già messi a dura prova da una situazione sempre incerta dovranno confrontarsi anche con i concorsi, i famosi concorsi del 2011. Com'è possibile? Le graduatorie, si legge, saranno pronte a fine agosto 2013. Com'è possibile per un paese civile aver bisogno di 2 anni per smaltire un concorso, per fare delle graduatorie? Guardi, questo semmai è un buon risultato date le performance recenti della nostra amministrazione. Le posso ricordare che un concorso per ispettori è stato bandito nel 2008 e non si è ancora concluso con la nomina dei vincitori e sono passati 5 anni e mezzo dal bando. Per cui è tutto il sistema del reclutamento del personale pubblico che non tiene più. Non tiene più perché le regole sono vecchie, perché si continuano a seguire percorsi, procedure, metodi che hanno 50 anni nella migliore delle ipotesi, quando non hanno un secolo e più. E quindi in tempi che si muovono con altri ritmi, con numeri molto maggiori di quelli che erano un secolo fa o 50 anni fa, la conseguenza è l'inefficienza che vediamo tutti gli anni e in tutte le circostanze. Cioè lei, quindi, mi sta dicendo... Per un concorso non sono troppi in realtà. Dobbiamo anche rallegrarcene, 2 anni dobbiamo per un concorso. Dobbiamo anche rallegrarci, perché esistono precedenti peggiori. Senta preside, questa notizia della mancanza delle immissioni a ruolo e notizie ufficiali non è che tenga in ambasce solo i candidati, naturalmente, no? Tiene in ambasce anche ovviamente gli utenti, o i presidi, ma gli utenti, le famiglie. Quindi non si capisce come mai ogni anno ci si trovi a discutere sempre dello stesso problema. Tra l'altro non c'è nemmeno risposta a quei 21.000 docenti che hanno acquisito l'abilitazione. È chiaro che c'è un malcontento tra il personale di ruolo, tra coloro che attendono di essere nominati come supplenti. Ci sembra una situazione decisamente caotica. Domenico Pantaleo, buongiorno. Possiamo... Buongiorno a voi. Possiamo buongiorno. Prendere come buone, diciamo così, le parole del Ministero? L'abbiamo contattato anche noi ieri, abbiamo parlato con un sottosegretario, cioè quest'anno avremo un avvio di calendario scolastico che assicurerà maggiore efficienza rispetto agli anni precedenti. Assolutamente no, perché scontiamo una serie di problemi. Scontiamo innanzitutto i tagli epocali della ministra Gelmini, la spending review di Monti, l'incapacità anche di questo governo di cambiare in qualche maniera quella modalità di intervento sulla scuola, tutta finalizzata a risparmio. Voglio ricordare che alla scuola sono stati tagliati 8 miliardi di euro e 130.000 il personale in termini di docenza e ATA, hanno una ripercussione anche su quest'anno. Penso ad esempio al fatto che noi nelle scuole secondarie superiori abbiamo circa 8.000 sovranumerari e in alcune province, penso Torino, abbiamo addirittura gente che non ha più la possibilità, cioè gente che aveva prima una cattedra e che oggi è inutilizzabile, non si sa dove mandarlo perché sostanzialmente sono stati ridotti fortemente i posti, soprattutto, ripeto, nella scuola secondaria superiore. Quindi questo è un primo problema. Il secondo problema è si parla solo di docenti, c'è tutto il personale tecnico amministrativo che non si capisce bene che fine fa. Voglio ricordare che il contingente delle missioni ruolo per quest'anno doveva essere 11.500 docenti, sono 11.268 in realtà, più 3.500 assistenti tecnici amministrativi. Non si capisce, oggi c'è un incontro, oggi pomeriggio, di ATA non si parla più. Voglio ricordare che 3.000 assistenti tecnici amministrativi, se non si trova una soluzione al problema docenti nidoni, a gennaio andranno fuori, cioè perderanno il posto, sono precari che perderanno il posto. A questo aggiungiamo Mi scusi, perché lei giustamente sì. Da sindacalista, segretario generale sì. della CGIL sì. parla del posto, ha ragione, ed è quello che deve tutelare, però ricordiamo anche che oltre a perdere il posto si creano a ricasco nella gestione della scuola, nella gestione certo. dell'amministrazione, certo. della quotidianità di ogni istituto, certo. qui stiamo parlando di scuole dell'obbligo, università sì. escluse naturalmente, e tutte delle problematiche che portano poi a tagli di curriculum, tagli di programma, decadimento della qualità in continuazione anche dell'attività didattica, penso siano situazioni da segnalare. Ora, il Ministero però ha fatto sapere tramite un dirigente di cui ieri sono state riprese le parole da tutti i giornali, Luciano Chiappetta, che tutto andrà bene, anzi andrà meglio dell'anno scorso, si comunicheranno i contingenti provinciali ai sindacati, sarà resa più efficiente la macchina organizzativa e tra l'altro saranno organizzate anche tutte le supplenze prima dell'inizio dell'anno, perché poi c'è anche il problema delle supplenze, delle sì, cattedre vuote. Io ho grande rispetto per il dottor Chiappetta che fa un lavoro egregio lì al Ministero, cerca di tenere sulla baracca, ecco, ho dato la definizione di che cos'è oggi il MIUR, cioè nel senso che noi abbiamo un problema di governo del sistema, perché in questi anni non c'è stata solo una riduzione nelle scuole, c'è stata una riduzione dei ministeri, non si è messo mano anche ad una seria organizzazione, oggi noi non siamo in grado più di avere un governo del sistema scolastico in questo paese, questa è la verità, insomma, lo sa anche la ministra Carrozza, è perfettamente consapevole, per cui tutte le questioni che dice il dottor Chiappetta andranno tutte verificate. Faccio un esempio, c'è le missioni ruolo del personale, coloro i quali hanno vinto i concorsi, lei prima accennava al fatto sì. del 31 agosto. Attenzione, se entro il 31 agosto in tutte le regioni non vengono sostanzialmente ratificate le graduatorie di chi ha vinto il concorso. Scusi, chi ha vinto il concorso due anni fa, tra l'altro, non l'altro sì, ieri, c'erano due anni per organizzare. Queste persone non entrano in missione ruolo, perché ovviamente anche la circolare ministeriale dice che tu devi fare le graduatorie entro il 31 agosto. Se non le fai, coloro i quali hanno vinto il concorso non entreranno in ruolo quest'anno, se ne parlerà del prossimo anno. Voglio ricordare a proposito, diciamo così, delle promesse da marinaio, che il ministro Profumo, quando bandì il concorso, disse: in 2 anni noi assorbiremo gli 11.500 del concorso che faremo. Bene, io sono convinto che prima di 3-4 anni queste persone che hanno vinto il concorso non entreranno in ruolo. Quindi questo è il primo problema, un caos relativo a chi ha vinto il concorso. Seconda questione, c'è tutta la storia delle supplenze. Noi l'anno scorso abbiamo avuto 24.000, all'apertura dell'anno scolastico, circa 24.000 cattedre scoperte da supplente. Bene, noi quest'anno, secondo me, rischiamo di averne ancora di più in una situazione caotica in cui ci saranno classi che non avranno supplenti, classi che dovranno cambiare i supplenti, perché poi ovviamente c'è tutto il meccanismo infernale, ha ragione prima il prezzo, quanto dice, bisogna rimettere mano a tutte le questioni del reclutamento, degli organici, perché anche questa distinzione tra organico di fatto e organico di diritto è una barzelletta italiana, nel senso che se tu hai bisogno di quell'organico non può esistere una distinzione tra organico di diritto e organico di fatto. C'è gente che è in organico di fatto da 10 anni, quindi praticamente ogni anno una cattedra, farebbe bene lo Stato a metterle nell'organico di diritto, perché lì stiamo parlando non di supplenze, lì stiamo parlando di gente che è tenuta in precarietà pur facendo un lavoro che continua a fare sistematicamente, diciamo. E così faccio l'esempio, c'è tutto il sistema del sostegno, no? Questi insegnanti di sostegno potrebbero essere tutti ampiamente stabilizzati, peraltro perfino il ministro D'Alia ha previsto una emissione in organico di diritto degli insegnanti di sostegno, perché quegli insegnanti di sostegno ogni anno stanno lì, e peraltro c'è un problema anche didattico, tu non puoi cambiare gli insegnanti di sostegno ogni anno, perché stiamo parlando di sostegno ad alunni disabili con gravi problemi che hanno bisogno di avere anche una stabilità, ma in generale la scuola ha bisogno di stabilità. Di un settore particolarmente delicato nell'ambito già certo. Bistrattato della scuola. Ora certo. Però lei ha nominato supplenti e ha detto è una barzelletta tutta italiana. Ci segnalano tra l'altro non è nemmeno italiana in maniera organica, ci scrivono dalla Sicilia, sembra che certo, sia ancora certo. Più a rischio. Dovrebbe iniziare lì la scuola il 17 settembre. Il calendario in alcune regioni sembra ancora più a rischio per questi meccanismi. Ma al di là di questo, non esiste un altro posto. Poi, se qualcuno anche degli ascoltatori ha avuto l'occasione, la possibilità di iniziare scuole per i propri figli o in prima persona all'estero, può anche chiamarci con la propria testimonianza all'800 24 00 24. Non esiste questa situazione altrove. Perché noi continuiamo ogni anno a trovarci alle prese con problemi che andavano risolti ben prima? Ora c'è una possibilità, e molto praticata altrove, di maggiore delega non solo al provveditorato, ma semplicemente, molto più pragmaticamente, diciamo così, ai responsabili del singolo istituto. E Antonio Petrolino, lei che appunto è preside e dirigente dell'Associazione Nazionale Presidi, risolverebbe il problema il fatto di cambiare il meccanismo di nomina, e in quale direzione bisognerebbe farlo? Guardi, noi una proposta su questo punto l'abbiamo formulata già oltre 10 anni fa, al tempo della legge 124 del 99, che il dottor Pantaleo ricorda bene naturalmente, e la nostra proposta era una proposta di modifica radicale. Noi siamo convinti che risolverebbe il problema, e comunque l'esperienza di questi anni ci dice che difficilmente potrebbe peggiorarlo, visto come vanno le cose. La proposta è molto semplice, in realtà, almeno per quanto riguarda le nomine annuali, le supplenze annuali, che sono alcune decine di migliaia ogni anno, se siano troppe o troppo poche in materia su cui si può discutere, probabilmente sono troppe, perché almeno un certo numero di queste potrebbero essere effettivamente stabilizzate, ma comunque un certo numero sono fisiologiche, perché ci sono variazioni nel numero degli alunni, perché l'andamento delle promozioni o delle bocciature non può essere previsto con assoluta certezza, eccetera. Ma diciamo, almeno su questi supplenti annuali, queste poche decine di migliaia di supplenti annuali rispetto a un totale di insegnanti che supera abbondantemente i 700.000, potrebbero essere nominati direttamente dalle scuole. Ovviamente non, come posso dire, in maniera arbitraria, utilizzando semplicemente le stesse graduatorie che utilizzano i provveditorati. Siamo nell'epoca dell'informatica, chiunque oggi va su internet e si prenota un volo aereo o un biglietto ferroviario da solo, senza bisogno di passare da nessuna agenzia ufficiale, perché c'è un sistema informatico previsto per fare queste cose. Quindi lei dice questo eviterebbe il collo di bottiglia, diciamo così. Esattamente, perché anziché ogni proprietario dover effettuare migliaia di nomi, pensiamo a un proprietario come quello di Roma, di Napoli o di Milano, o Torino, delle grandi città, ogni scuola avrebbe da nominare 4, 5, 6, 10 quando va male insegnanti, e lo potrebbe fare nel giro di una mattinata o ottimo nel giro di una settimana, a voler essere pessimisti. Semplicemente accedendo alle stesse graduatorie cui accede il provveditorato. Perché cosa avviene oggi per la nomina dei supplenti? Qual è il meccanismo? Qual è la procedura? E soprattutto quali tempi richiede? Un meccanismo infernale? Ce lo spiegherà tra pochissimo. Ci fermiamo solo per un istante per andare a controllare la situazione del traffico in questo 20 agosto. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. L'aria è abbastanza bollente tra gli addetti, perché mentre si continua a prendere tempo, mentre si continua a cercare di promettere di trovare soldi per salvare la scuola, sono moltissimi gli insegnanti che ci scrivono al 349-238-6666 e parlano delle loro situazioni. C'è chi è vincitrice di concorso dal 1995, come Anna, che ci scrive: insegno da allora e sono una precaria storica. Allora, perché questo concorso quando sono 19 anni che aspetto un mio diritto? È un'estate davvero da incubo per Anna e non solo. E come ricadrà tutta questa disorganizzazione, più che altro questa organizzazione molto farraginosa, sulla qualità della scuola che i nostri figli andranno a frequentare da settembre in poi? Stavamo spiegando con il dirigente dell'Associazione Nazionale Presidi come il meccanismo di nomina dei supplenti sia ancora lo stesso da 50 anni a questa parte, poi ci si riempie la bocca di innovazione. Quindi, Petrolino, cosa succede oggi per nominare un supplente? Quali sono i passaggi e che tempi richiedono? Guardi, parliamo dei supplenti annuali, naturalmente. I passaggi sono un passaggio composto di ascendente e un passaggio discendente. Cioè, le scuole, dopo aver completato gli scrutini e le iscrizioni, vale a dire nel mese di giugno, grosso modo, comunicano ai provveditorati le disponibilità di posti residui. Il provveditorato raccoglie tutti questi dati e li totalizza a livello provinciale, e quindi per ogni materia di insegnamento, che sia italiano, inglese o matematica o quel che l'è, fa il totale e dice: nella provincia di Roma ci sono X cattedre di questa materia e X cattedre di quest'altra materia, eccetera. Quando ha finito tutta questa totalizzazione, lei può immaginare quanto tempo ci vuole in situazioni complesse come quella delle grandi città, può partire con le nomine. A quel punto cosa fa? Prende le graduatorie provinciali, quella su cui base vengono nominati i supplenti annuali, seleziona un lotto, 30, 40, 50, dipende dal numero di posti da conferire, di aspiranti in ordine di graduatoria, e li convoca. Come li convoca? Li convoca normalmente ormai per email, ma non tutti hanno l'email, quindi può anche essere che come li non tutti hanno l'email? per telegramma, per fax, quindi deve dare un certo numero di giorni perché venga sicuramente ricevuta la convocazione. Vabbè, li convoca presso una certa scuola. È un quadro di scuola davvero innovativa quello che ci sta dipingendo, a partire dai vertici. Comunque, continua, li convoca per telegramma, vabbè. Dopodiché si presentano, certo, ricevuto il telegramma, sì? Si presentano o non si presentano, dipende. E scelgono in ordine di graduatoria fra i posti che sono disponibili a livello provinciale. Siccome naturalmente non succede mai che a prima convocazione i posti sono tutti coperti, tranne per graduatori molto marginali, c'è poi una seconda convocazione, ed eventualmente una terza e una quarta. Questo poi comporta ulteriori problemi. Perché ma questo in quali mesi avviene, scusi? E questo dovrebbe avvenire entro il 31 agosto, ma di solito si trascina almeno fino al 20-25 settembre, qualche volta anche oltre. Grazie. Le scuole sono partite, esatto, e c'è questo avvicendamento penoso di docenti in cattedra che riescono a fare tre lezioni per poi... Tra l'altro c'è un effetto incrociato, se mi permette un'aggiunta, di questo, che nel frattempo i presidi, proprio perché le classi sono già partite, le lezioni sono partite, hanno nominato dei supplenti temporanei. Dove li hanno nominati? Dalle stesse graduatorie da cui il proprietario nel frattempo chiama per la supplenza annuale. Sì. Quindi il proprietario nomina qualcuno che in quel momento ha una supplenza temporanea in una scuola, la lascia per prendere quella annuale, il presidente ne chiama un altro e tre giorni dopo glielo sfilano sotto un'altra volta, perché le graduatorie vengono scorse, le stesse graduatorie nello stesso ordine. Mi sembra, quindi, da come lei descrive il procedimento, stia implicitamente suggerendo anche la soluzione, ma ne parleremo tra pochissimo. Diamo voce agli ascoltatori. Maria Cristina, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, signora. Dica. All- Allora, niente, io sono una nonna in questo momento, nel senso che ho avuto quattro figli, ho provato sia la scuola italiana che quella all'estero, e in questo momento ho le nipotine che vanno a scuola all'estero in Francia, per la precisione. Tra l'altro in una regione che è considerata una regione anche un pochino svantaggiata, che è la Corsica, dove però tutto quello che concerne la scuola è organizzato, diciamo, molto meglio. Io sono stata anche insegnante 20 anni fa in Francia, quindi conosco un pochino i meccanismi. Ora, e diciamo, cosa mutuerebbe, che... cosa copierebbe da quel sistema, in sintesi, allora, per rendere più efficiente l'organizzazione? Qui non stiamo entrando nella didattica, quindi semplicemente per l'organizzazione. Sì. Intanto, a livello di organizzazione, intanto le nomine vengono fatte entro l'inizio dell'anno precedente. Quando inizia la scuola tutto è già pronto, non ci sono questi, diciamo, questo sistema così faraginoso di convocazioni, telegrammi o d'altro, vengono direttamente nominati dai dirigenti scolastici e non c'è questo sistema di direttamente precariato. Dai dirigenti, dunque, vengono sì, nominati. E non ci sono, sì, dai presidi, sì, sì. Attraverso le graduatorie, si passa l'esame che è il CAPES e l'anno successivo vengono attivate dalle graduatorie, vengono prese queste insegnanti. Ci sono ritardi a volte all'avvio delle lezioni? No, assolutamente no, già è tutto organizzato, non ci sono assolutamente ritardi, a me non è mai capitato, io ho quattro figli di cui l'ultima, la penultima è andata dall'asilo fino all'università in Francia e non ho mai avuto questi problemi, quindi è proprio organizzato in un altro modo, non esiste questo sistema. E le nomine vengono fatte entro la fine dell'anno precedente. Dell'anno precedente, sì. Assolutamente, vengono fatte entro la fine dell'anno precedente, tra l'altro quando vengono fatti gli esami di abilitazione, che corrispondono agli esami di abilitazione, il CAPES, diciamo che c'è l'obbligo poi durante il periodo di preparazione al CAPES, a un certo punto c'è l'obbligo di affiancare poi un'altra insegnante, no? Quindi è già, praticamente già nel momento della preparazione ci sono gli insegnanti che entrano nella scuola e già sono pronti per l'anno successivo. E già familiarizzano col tipo di utenza. Sì. Rimanga con noi, è interessante questa sua esperienza francese, perché ci segnalavano sempre quelli anglosassoni simili nella delega, cioè vengono gli insegnanti direttamente nominati dai dirigenti scolastici. Pantaleo, il sindacato come prenderebbe una innovazione in questo senso? Come le sembrano queste soluzioni? Questo modello francese? Non risolverebbe alcun problema, per una motivazione molto semplice. Bisogna un po' leggere la storia di perché siamo arrivati a questo stato di cose, perché altrimenti rischia di essere una discussione un po', come si può dire, un po' aleatoria. E noi abbiamo in questi anni, cioè parlo dell'ultimo decennio almeno, una situazione di questo genere, e drasticamente ridotto l'organico di diritto, cioè nel senso che coloro i quali hanno una cattedra sono stati radicalmente ridotti. Oggi avremo un 650.000 docenti più un 250.000 personale ATA. Nel frattempo è aumentata a dismisura l'area del precariato attraverso i meccanismi delle supplenze, sia quelle annuali fino alla fine delle lezioni, ma soprattutto le supplenze brevi, perché noi non ci possiamo dimenticare che poi ci sono tutto il meccanismo delle supplenze. Certo, oltre alla supplenza un anno, ma non capisco perché lei dice che non risolverebbe il problema. Adesso noi abbiamo un problema, abbiamo delle graduatorie esaurimento previste dalle leggi che hanno all'interno 180.000 iscritti, quindi noi abbiamo un graduatore di esaurimento fatto da 180.000 persone precarie che ogni anno sono costretta a questo calvario delle supplenze, dei meccanismi e compagnia bella. Ovviamente in una situazione, peraltro, in cui esistono anche forti disparità territoriali, perché per il meccanismo di definizione degli organici, attenzione, questi meccanismi di cui stiamo parlando agiscono in maniera differenziata secondo che una scuola è nel centro-nord o nel centro-sud. Nel sud ci troviamo di fronte a precari che sono una disperazione più generale, e questo meccanismo del graduatorio nel passato ha consentito anche i trasferimenti nel centro-nord, sia del personale scolastico sia del personale ATA, quindi tante persone dal sud proprio perché non trovavano lavoro. E questo è il quadro storico, lei dice perché tutto siamo arrivati qua, questo l'abbiamo capito. La sua opinione, esatto, sulla soluzione. È che noi dobbiamo cambiare tutto il meccanismo del reclutamento, tutto il meccanismo con i quali si vanno a definire gli organici, bisogna fare un piano di stabilizzazione come fu fatto dal governo Prodi per quanto riguarda i precari, dopodiché fatta questa operazione di quadro, si può ragionare di tutto. Però fatta questo prima di tutto la stabilizzazione, dunque questa è la linea da cui deve passare la razionalizzazione, la semplificazione, dunque l'aumento della qualità nelle nostre scuole. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Certo che ci sono ragioni storiche, certo che ci sono meccanismi, certo che ci sono complicazioni, ma visto dalla parte dell'utente, quell'utente che paga le tasse, perché se abbiamo un'imposizione fiscale che ci piazza ai primi posti nel mondo, la scuola dell'obbligo e la sanità dovrebbero essere proprio le aree in cui questa imposizione fiscale viene restituita ai cittadini, non solo ai cittadini, ai residenti, e poi i residenti più importanti, quelli che costituiscono il futuro di domani. E stiamo parlando naturalmente di ragazzi, studenti, sono 8 milioni quelli che aspettiamo per l'avvio dell'anno scolastico 2013-2014 sui banchi di scuola e che in termini di servizi ancora una volta si troveranno a fare i conti con questa incertezza della didattica, chi sarà l'insegnante, nomine che arrivano in ritardo. Stabilizzazione è la strada indicata dal sindacato, assolutamente la stabilizzazione di queste decine di migliaia di supplenti e di precari che per a volte decenni, come ci segnalano anche ascoltatori, si ritrovano sempre a vivere un'estate col patema d'animo: verrò chiamato, dove verrò chiamato, cosa mi verrà assegnato, per quanto tempo sarà la cattedra. E quindi ci sono diversi aspetti e diversi elementi che si giocano ogni anno prima dell'avvio della scuola proprio su questo tavolo, che poi si tratta di cattedre più che di tavoli, si tratta di banchi di scuola. Le vostre indicazioni per come risolvere, ma definitivamente in maniera strutturale, in maniera razionale e semplice, questo problema. Un'indicazione molto interessante ci è venuta dall'insegnante che ha figli che hanno frequentato la scuola in Francia, in Corsica e poi nipoti, e di ritardi non ne ha visti mai. Le vostre esperienze? Alberto, buongiorno, pronto? Pronto. Buongiorno Alberto. Dunque, allora io ho mia figlia che fino alla terza elementare, metà della terza elementare, ha frequentato la scuola elementare qua in Italia, dopodiché adesso è con mia moglie trasferita in Florida e perciò ha avuto l'esperienza delle due scuole. E parte di scuola pubblica, non parlo di scuola private. Di scuola private, chiaro. Private. Beh, un altro mondo nel senso che tutto estremamente più organizzato, le scuole, dici, a parte anche nella scuola pubblica c'è una possibilità di scelta, qualsiasi scuola uno può andare su internet e vedere il voto della scuola e decidere se mandare i figli a una scuola piuttosto che un'altra. E l'avvio è sempre puntuale da calendario o ci sono ritardi? L'avvio è sempre puntuale da calendario, adesso è appena iniziata l'equivalente della prima media, l'8 agosto è iniziato il primo giorno grade scolastico, primo giorno di scuola, tra le altre cose viene premiato il merito degli allievi, mia figlia è andata bene a scuola, quest'anno è una classe che potremmo definire speciale, ma perché hanno messo gli allievi più bravi in classi speciali in una scuola per fargli fare programmi più avanzati. Gifted, il programma cosiddetto per Gifted. Studenti che abbiano delle capacità così diverse. Ma su questo si può discutere, no, perché ci sono diverse in senso, ma questa volta diverse in positivo. In positivo, sì, sì. Sì. Senta una cosa, mi ha colpito una frase di quelle che ha detto finora. Quando ha iniziato sua figlia la scuola? L'8 agosto è stato il primo. Quindi non c'è questo scuola. Calendario da stagione contadina che anche ci trasciniamo qui in Italia con chiusura estiva prolungata. È un pochino più adatto ai tempi, semplicemente. Grazie per questa testimonianza di Alberto. Semplicemente così, maggiore razionalità nelle nomine, deleghe. Poi oggi non entriamo nella questione del merito. merito, del merito e della meritocrazia del singolo allievo che viene, a cui vengono dedicati programmi speciali, perché su questa procedura invece molti storcono il naso dicendo il meglio deve essere dato a tutti. Ma la didattica oggi non la tocchiamo, forse lo faremo in un'altra puntata. Semplicemente ci basterebbe capire che per un anno la scuola italiana comincia entro i parametri e senza grandi incertezze e patemi su chi sarà il docente in cattedra. Giorgio, buongiorno, pronto? Pronto. Hey, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama Giorgio? Da Latina. Da Latina, ci dica, ha figli? Allora, io sono un preside in pensione. Un preside in pensione? Eh sì, sono stato al liceo classico di Latina per molti anni e comunque riferendomi a quanto lei in apertura diceva circa il Trentino, dove lì le cose naturalmente funzionano meglio eccetera, il mio primo anno di presidenza io l'ho fatto a Merano praticamente nell'anno 83-84. E com'è andata? Benissimo, devo dire, prima di tutto lì c'è, come lei sa, come sapranno, c'è la sovrintendenza che ovviamente si sovrappone, per fortuna, al Ministero della Pubblica Istruzione. Si sovrappone nel senso che dal punto di vista tecnico-organizzativo, nomine e diciamo organici eccetera eccetera, è perfetta. Ecco, qui io posso dire una cosa comunque, cioè devo dire che questa ottimalità è dovuta anche all'area molto più circoscritta, per così dire, no, rispetto a tutto il resto d'Italia. Sì, sì, spezziamo una lancia in favore dell'Italia, dice, sì, chiaro che gestire un'area più limitata dal punto di vista e dei posti e delle utenze e delle cattedre, certo, è più semplice. Però preside, al di là del descrittivo, sì, veniamo a cosa secondo lei, dalla sua esperienza, sì, si potrebbe mutuare, così quasi a costo, beh, sui costi, sì, poi c'è da parlarne, ma cosa un modello, un buon modello, quale sarebbe una riforma, se lei venisse chiamato dal MIUR a dare suggerimenti, che indicherebbe per spianare la strada a una scuola più semplice e puntuale soprattutto? Allora, innanzitutto ho sentito che qualcuno, non so se era un sindacalista, non era d'accordo sulla faccenda di predisporre, no, un anno prima, per quanto riguarda le nomine, le assegnazioni delle cattedre eccetera. Per me invece è una cosa che assolutamente si può fare, perché il Ministero logicamente ha un quadro storico, ovviamente ancora di più i provveditorati. Quindi a questo punto, a mio giudizio, predisporre, quindi anticipare prevedere quelli che saranno i bisogni. Perfetto. Poi è chiaro, poi c'è un gruppo, una percentuale di studenti di cui non si prevedeva la presenza in quel dato grado perché bocciato o perché trasferito, ma sono cose che incidono in maniera marginale poi sui numeri finali. Per cui, linea di massima, prevedere prima e poi può fare. Però nello stesso tempo essere molto più chiari per quanto circa le circolari che si emanano in materia, e questo e qui bisogna ovviamente riferirsi anche ai ministri della pubblica istruzione, che Dio mio, nell'arco io li ho passati credo tutti i ministri, sì, della pubblica, sì, istruzione, sì. Non c'è stato mai un ministro ottimo, però dove più, dove meno, perché anche nel passato, guardi, la faccenda delle nomine e dei ritardi si è posta non sempre poche volte, e in maniera anche abbastanza grave. Però poi negli ultimi anni più o meno il tiro è stato aggiustato. Però voglio dire che purtroppo la scuola italiana ha sofferto e continua a soffrire di un male molto grave, secondo me. Quale? E cioè che vengono nominati dei ministri che non hanno specifiche o opportune competenze. Prova ne sia l'ultimo Profumo, per carità, non voglio parlarne, ma soprattutto la Gelmini per me, di tutti i ministri che ci sono stati nella pubblica istruzione, io non esito a dire con cognizione di causa che è stata la peggiore di tutti, che ha inferto peraltro un colpo mortale alla nostra scuola. E questo soprattutto con quale intervento, brevemente? Qual è? Gelmini? Sì. Beh, praticamente cosa le sta rimproverando? Ha cancellato le autonomie. Grazie Preside, dobbiamo concludere e do la parola proprio al Presidente dei dirigenti nazionali. Ha sentito molti stimoli che vanno nella direzione per migliorare questo annoso problema dell'avvio ritardato delle scuole, soprattutto della delega e della programmazione anticipata. Ha sentito il modello francese, qualcosa da copiare da qui dunque, secondo lei, Professor Petrolino? Sicuramente sì. Però una delega e una programmazione anticipata si può fare soltanto sul numero di ragionamenti piccoli e senza l'effetto collo di bottiglia di cui abbiamo parlato. Quindi se si riconducesse la nomina dei supplenti annuali su graduatorie provinciali, anche le attuali graduatorie, ma a livello di scuola, noi potremmo avere entro luglio tutti gli insegnanti al posto che debbano occupare il 1° settembre. Questo si potrebbe fare tranquillamente a costo zero, vorrei dire. A costo zero, praticamente intervenendo sul meccanismo, potremmo ovviare a questo annoso problema dell'incertezza dell'avvio dell'anno scolastico. La conclusione è, dunque, non è solo come dire, deludente, ma anche amara per molti dei nostri ascoltatori che segnalano questa quasi esasperazione di dover parlare ogni anno dello stesso problema. Voi del sindacato Pantaleo avete indicato la prima strada, la prima soluzione, stabilizzazione del corpo insegnante. Quanti sono i precari in attesa di questo intervento? Ci sono 180.000 precari per l'esaurimento, 12.000 che hanno fatto il TFA ordinario e non sanno che cosa fare, altre 80.000 che faranno il TFA speciale e non sanno che cosa fare. Il tema fondamentale è quale scuola noi vogliamo in questo paese, perché negli anni scorsi lei ha parlato di tasse. Ma guardi che dalla scuola sono state sottratte risorse in favore, ad esempio, dell'abolizione dell'ICI. Cioè, questo paese non ha investito come hanno fatto la Francia, la Germania, l'Inghilterra sulla scuola. Ha deciso che la scuola è un costo e come tale va gestita in forma emergenziale. Ecco, noi crediamo che oggi bisogna introdurre, io sono molto d'accordo con l'ascoltatore, il preside ascoltatore, bisogna introdurre programmazione. Per introdurre programmazione però bisogna investire e bisogna investire nel potenziamento degli organici, perché voglio ricordare che legato agli organici c'è la qualità formativa. Oggi in molte scuole noi non siamo in grado di dare né qualità formativa e né quantità formativa. Ci saranno scuole in alcune parti d'Italia in cui ci sarà difficoltà perfino ad aprirle. Basta dunque con l'approccio emergenziale, semplicemente programmando prima si potrebbe evitare parte della problematica di cui ci troveremo a discutere, cioè da scommetterci a questi microfoni, proprio a settembre, quando le scuole apriranno o dovrebbero aprire. Grazie a tutti voi, grazie a Domenico Pantaleo, ad Antonio Petrolino per essere stati con noi e ai vostri contributi. Ora cambiamo pagina, anche se rimarremo in tema scolastico, o almeno nei dintorni di qualche scuola. Boys who love boys, who big girls, who big boys, love their girls. Attenti, attenti, girls and boys, perché è guerra. 9:19, quando ci avviamo ad affrontare una tematica sconosciuta in Italia, ma c'è da scommetterci. Tra poco arriverà anche qui. E parleremo del sesso X, non in senso cromosomico, ma del sesso non precisato, proprio così. C'è perfino la Germania che ha deciso da qui a breve di emettere un documento di identità in cui non si parli di gender, in cui non venga precisato se io sono donna o uomo. E sembra una bizzarria del politically correct, e invece è giudicato uno strumento di difesa contro discriminazioni che evidentemente si fanno sentire investire ancora e ancora in troppi ambiti. Dagli Stati Uniti la guerra si sposta invece nelle corsie di Toys R Us. Avete presente questo grande magazzino di giocattoli in cui si acquistano giochi un po' per tutte le età? Ebbene, c'è la Pink Island. Cos'è questa Pink Island? È la corsia delle ragazzine, dove dal colore rosa subito si identifica il sesso di chi andrà a comprare giocattoli da quelle parti e si troverà con bambole, Barbie e altri giochi di questo tipo che, secondo alcuni pedagogisti statunitensi, altro non fanno che perpetuare gli stereotipi. Non è una guerra di qualche bizzarro perditempo, è sempre più diffusa la necessità e la discussione sulla possibilità di eliminare le differenze sessuali. Dagli asili, per esempio, dalle scuole di infanzia, è nota la storia di una coppia canadese che si è rifiutata di dichiarare quale sia il sesso del figlio barra A, portandolo e iscrivendolo all'equivalente della scuola materna, perché questo avrebbe condizionato lo sviluppo cognitivo del bambino, cioè gli insegnanti sarebbero stati più propensi a farlo giocare con questo, con quello, e quindi a non lasciare libera espressione alla propria identità. Il sesso, hanno detto i genitori, se lo sceglierà più avanti. E da tutti questi esempi vogliamo trarre anche una domanda sull'Italia, cioè sarà una via che percorreremo anche noi? E per rispondere ringraziamo un pedagogista oggi con noi, Cristian Fabi. Buongiorno, bentornato. Devo dire. Buongiorno a tutti. Ecco, Cristian Fabi è direttore dell'azienda speciale, si chiama così, che gestisce i nidi e gli asili della provincia di Reggio Emilia, grandissima eccellenza italiana, copiata in tutto il mondo, copiata insomma, ci provano, nel senso che vengono a studiarla più che altro per approfondirne alcuni aspetti, rubarne altri, eccetera, eccetera. Ora, voi che siete sempre all'avanguardia, stiamo andando in questa direzione? Arriveremo all'annullamento dei sessi sui banchi degli asili e delle scuole? Ma direi di no, direi anzi che l'obiettivo debba essere quello di valorizzare le differenze. Certo, il tema degli studi di genere, il tema del genere già dalla prima infanzia è un tema molto contemporaneo e anche molto dibattuto. Noi stiamo lavorando con questo insieme di scuole di Stoccolma, che fa riferimento alla scuola Egalia, piuttosto famosa, nella quale hanno lavorato anche sulla linguistica, hanno lavorato anche sull'utilizzo del pronome neutro hen in svedese, però è solo una parte di un complesso di... Cioè il pronome neutro per rivolgersi al bambino o alla bambina? Esatto, che è una cosa che fa già parte della lingua svedese, ma che in questa scuola è stata in qualche modo potenziata proprio per non, per non incentivare ulteriormente le differenze di genere in termini linguistici. Loro lavorano molto proprio sull'approccio relazionale, sulla parola, e quindi hanno scelto di valorizzare di più il neutro, quello che in inglese è lit, che già fa parte della lingua svedese e che in qualche modo da 20 anni anche lo Stato svedese incentiva con una legge. Ma scusi, allora, visto che in Italia si utilizza il lei, dovremmo avere come prodotto una società ancora meno maschilista di quella svedese, cioè lo facciamo anche con gli adulti? Sì, da noi in realtà il tema è agli albori proprio, questa riflessione anche sulla linguistica rispetto agli studi di genere nelle scuole dell'infanzia è proprio all'inizio. Diciamo che l'obiettivo che ci stiamo ponendo noi è un altro, è quello di dare valore ai tanti progetti di vita dei bambini, per cui questa strada dei pronomi a noi non interessa tanto, quanto invece il lavorare, come si diceva anche prima, sugli stereotipi, quindi evitare per forza che le bambine debbano giocare con le bambole o che i maschi debbano fare la lotta, ma uscire da questo tipo di stereotipi e offrire entrambe le possibilità sia ai bambini che alle bambine. È un approccio di valorizzazione delle differenze che però vuole partire dalla consapevolezza che queste differenze ci sono nella nostra cultura e ci sono. E sono un arricchimento? Il fatto che esista una differenza tra i due sessi, secondo la pedagogia vostra, visto che vi confrontate con gli svedesi, a quanto ho letto avete anche litigato su alcuni punti. L'approccio italiano è che queste differenze, certo, debbano essere private di quegli stereotipi che portano poi nelle loro forme così più terribili al macismo o alla sottomissione da parte delle ragazze, ma che vadano mantenute e valorizzate queste differenze anche a livello di gioco, cioè non eliminare la Barbie o la bambola, ma far sì che con la bambola giochi anche il bambino, così come con il Lego piuttosto che col meccano abbia accesso anche la bimba. Questo è un pochino l'approccio, adesso l'ho semplificato per far comprendere le diverse metodologie. E cosa dite ai vostri colleghi svedesi quando vi trovate a confrontarvi? Diciamo che su questo c'è una condivisione, quello del pronome è semplicemente un aspetto di un approccio più globale su cui invece ci troviamo molto d'accordo. Diciamo anche che questa cosa del pronome è una di quelle cesure che fanno notizia e che ha permesso anche a loro poi di aprire un dibattito. A volte per poter aprire un dibattito serve anche un approccio un po' forte. In termini generali, proprio come dicevi, è l'offrire le tante possibilità, il non togliere, ma il dare, e in questo senso siamo per una pedagogia delle differenze, non solo maschile e femminile, ma tutte le differenze, anche per esempio quelle legate alla multiculturalità, che si trovano oggi all'interno della società e che devono trovare cittadinanza e visibilità anche nella scuola, anche nella prima infanzia, per poter cominciare a costruire una società nella quale le differenze appunto siano un valore. Di fatto l'umanità si è evoluta proprio perché c'erano le differenze che hanno permesso l'evoluzione. È chiaro, questo è molto chiaro. Ora, rimanendo ai meccanismi di genere, in un settore dove si immagina qualcosa di molto evoluto dal punto di vista dell'uguaglianza, cioè la ricerca, si constata, anche stando ai dati a disposizione, messi a disposizione dal parte dell'Unione Europea ogni anno, dati aggiornatissimi che prendono in esame diversi aspetti, che c'è una parità all'accesso in termini numerici, a volte anche una superiorità da parte del genere femminile. Quando ci si avvicina, per esempio, all'istruzione universitaria, in Italia non è vero che siano meno le ragazze che affrontano o che scelgono le facoltà scientifiche o a forte indirizzo tecnologico. Eppure questa differenziazione, questa supremazia quasi in termini numerici del genere femminile, man mano che si prosegue nella carriera, in qualche modo scema, cioè in qualche modo si va perdendo. Allora noi abbiamo deciso di andare a scomodare le eccellenze italiane che siedono nelle stanze dei bottoni, come le ha definite l'Espresso in una inchiesta ribattezzata Rivoluzione Rosa. Sono donne che guidano esperimenti con centinaia di persone, maneggiano milioni di euro e sono delle protagoniste. Ora abbiamo scomodato loro per chiedere come hanno fatto non solo a imporsi e ad arrivare, ma soprattutto a formarsi. Buongiorno, benvenuta Elisa Molinari, buongiorno. Buongiorno. Elisa Molinari, lei ha sentito questo dibattito sulla differenza di genere oggi? Certo. Lei è una docente di fisica della materia condensata all'Università di Modena e Reggio Emilia. Lei, diciamo che è un'autorità indiscussa di nanotecnologia. E vogliamo farle una domanda personale, però. Da piccola, con cosa giocava? Giocavo un po' con tutto e credo, ho fatto una scuola che almeno alle elementari era di quelle con solo bambine. Non credo che sia tanto questo il punto, anzi ci sono alcuni che pensano che non avere le scuole miste possa addirittura aiutare. Io veramente credo che il ragionamento sulle diversità che è stato introdotto parlando degli asili sia molto ragionevole e sia ragionevole non solo quando uno comincia, ma anche quando si va avanti e quando si entra nei laboratori. Avere a disposizione degli approcci diversi, delle creatività, delle fantasie diverse, ma anche dei comportamenti diversi in un laboratorio è una grande ricchezza. E se noi non riusciamo ad avere abbastanza ragazze o abbastanza donne anche a livelli alti delle carriere, ci perdiamo non solo una possibilità di far entrare in gioco tante intelligenze, tante magari donne eccellenti, tenendoci qualche volta invece dei loro colleghi più mediocri, perché questo vuol dire se diciamo non giocare in maniera corretta. Cioè interesse di tutti accedere al più grande vivaio di campioni. Il massimo vivaio in partenza, e anche mantenere quindi tutte le intelligenze migliori possibili, ma anche tutti i comportamenti, i modi di stare in un laboratorio che fanno una diversità e una diciamo una creatività migliore, anche un modo di vivere meglio in laboratorio. Noi cerchiamo di avere la massima diversità sia avendoci tante ragazze quante più si riesce, per la fisica diciamo naturalmente è importante avere tante ragazze, in altre discipline bisognerà stare attenti a mantenere un equilibrio anche in altri modi, ma anche avere persone che vengono da altri paesi, avere attitudini diverse, cercare di non coltivare quelle attitudini per esempio che in certi campi hanno preso piede, di arroganza nei comportamenti, di diciamo competitività estrema all'interno dei gruppi eccetera. Noi vogliamo competere nel mondo naturalmente, vogliamo avere i gruppi migliori possibili date le condizioni che ci sono offerte, e siamo abituati a farlo, a cercare di conquistarci i nostri progetti, finanziamenti all'esterno, in Europa, con le imprese. Senta, ma è vero che lei, che nella ricerca esistono persone, ricercatrici autorevolissime, che quando firmano le pubblicazioni mettono l'iniziale al posto del nome proprio per evitare di essere discriminate? Ma guardi, questo punto è stato sollevato, è vero, qualcuno esiste, ed è anche vero che, anzi ne conosco anch'io personalmente, ed è anche vero che c'è però in corso una riflessione sulla consapevolezza riguardo a tutti gli stereotipi e a questi effetti, per cui per esempio le riviste scientifiche, una delle più autorevoli, Nature, ha fatto addirittura un numero speciale in cui discute questi meccanismi, si è data l'obiettivo di aumentare il numero di la percentuale di donne che fanno la valutazione dei progetti, che vengono invitate a scrivere delle rassegne eccetera, cioè c'è questo fenomeno, esiste, e in quasi dappertutto, e in Italia purtroppo non ancora, si sta cercando sia nelle riviste che anche a livello di politiche di identificare dei meccanismi che possano superarli questi problemi. Certo, noi abbiamo la possibilità, secondo lei, di eliminare il genere all'asilo non è uno? Non credo, almeno io non sono così, non penso proprio. Professoressa, rimanga con noi, torneremo naturalmente a sentire i suoi stimoli in questa direzione, ma vogliamo parlare anche con la professoressa Luisa Torsi, collegata con noi. Diamo un attimo la linea alla regia, ricordo il numero di telefono se ritenete che quella sia la strada da percorrere per eliminare nel risultato, poi nella vita pratica, le differenze di genere, l'eliminazione dell'identificativo sessuale fin da piccoli, fin dai banchi dell'asilo. Fatecelo sapere all'800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ma com'è possibile? Fermate il mondo, voglio scendere. Ci scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666. Questa è una deriva disastrosa di bizzarri, perdi tempo, sono strumenti del demonio. Non lo dico solo in senso religioso, ci scrive un ascoltatore che si trova a commentare questa pedagogia, e non solo pedagogia, sono anche strategie di marketing, per cui non so, tutti i giocattoli rosa negli Stati Uniti ora verranno sostituiti col colore oro, un po' meno stereotipato, e questo dovrebbe portare all'avanzamento della donna, o almeno ad aprire un dibattito, come ha suggerito il pedagogista. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Abbiamo disturbato questa mattina quelle che anche in un ambiente definito ancora un po' old boys network, cioè quello della ricerca, sono riuscite invece a imporsi, che è un brutto termine, a farcela. Professoressa Torsi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, mi sentite? E lei è coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Scienza dei Materiali, ma soprattutto, voglio ricordarlo, anche se lei è piuttosto schiva, ma io lo dico, è il primo scienziato italiano, la Torsi, ad aver ricevuto il premio Heinrich Emanuel Merck, quindi il premio conferito per l'eccellenza nel campo delle scienze analitiche. Non le chiedo con cosa giocava da piccola, professoressa Torsi, ma lei era già leader da piccola, dimostrava già questa tendenza? Mia madre diceva che ero prepotente, forse voleva essere leader, non lo so, però certamente tendeva ad imporre la mia a quei poveretti che si trovavano a giocare con me, sì. Ora, ha sentito il dibattito sulla possibilità di favorire l'incremento numerico non delle ricercatrici all'ingresso, ma di coloro che poi proseguano la carriera, abbiano dei progetti, abbiano dei budget a disposizione. Perché secondo lei c'è questa forbice tra un numero di studentesse altissimo all'avvio del percorso universitario che poi invece si perde per strada? Cos'è dovuto? Allora, io mi sono fatta una mia idea anche guardando il gruppo di ricerca che coordino, che si è composto negli anni di un numero piuttosto elevato di ragazze, sicuramente più del 50%, e i 25-30 anni sono un momento critico, perché da un lato c'è sicuramente, ovviamente io parlo delle ragazze eccellenti, di quelle che hanno i numeri e la voglia di arrivare ai posti di comando. Ecco, nonostante questa caratteristica sia molto chiara a me che le guardo dall'esterno, mi è capitato più di una volta di osservare che arriva questo momento della loro vita che coincide proprio nel grafico che lei ha descritto, il grafico Schipiges, con il momento nel quale il trend si inverte, i ragazzi diventano più numerosi delle ragazze. Ecco, quando arriva questo momento le ragazze vengono richiamate da una forza che io chiamerei il richiamo al ruolo naturale istituzionale di madri, di famiglia. Guardando il grafico coincide più o meno, possiamo dire, con i 28-30 anni d'età, diciamo? Sì, perché è più o meno dopo il dottorato di ricerca. Esatto, quindi dopo il dottorato. Quando le ragazze devono guardare ad un postdoc, che vedi caso è il momento nel quale tipicamente si cambia città o addirittura nazione. Ecco, quel momento diventa un momento molto critico e ci sono due tipi di barriere, a mio avviso, che poi le ragazze si trovano ad affrontare. Una è la barriera interiore. Secondo me bisogna educare le ragazze a scegliere di scegliere, cioè mettersi al centro della propria esistenza e chiedersi veramente che cosa vogliono dalla vita e che cosa ritengono sia meglio per la loro realizzazione. Questa io la chiamo una rivoluzione copernicana, che è ancora molto al di là da venire per i media, insomma, ovviamente, e che perché il discorso è questo: ci si sente delle egoiste se io dico ad una ragazza tu devi metterti al centro della tua esistenza, un po' questa barriera interiore che c'è, un po' la famiglia, l'educazione, eccetera, condizionamenti ci fanno venire questi sensi di colpa, perché una donna per sua natura dovrebbe essere votata alla dedizione all'esterno, e questo è un errore molto grosso, perché... Ma scusi, professoressa Torsi, lei sta ovviamente parlando della maternità, e sappiamo... Più in senso lato, ma lei che ha raggiunto questi vertici nella carriera, sì, è riuscita ad avere figli, a crescerli? Io ho due ragazzi, e sì, sono riuscita soprattutto con il supporto del mio compagno, di mio marito e della mia famiglia. Ovviamente io ho convinto loro che avere una carriera, cercare una carriera e soprattutto lavorare tante ore al giorno, perché in realtà io all'epoca non pensavo di arrivare dove sarei arrivata, però ecco, certamente volevo lavorare tutte le ore che secondo me erano necessarie per fare bene il mio lavoro. Ecco, io li ho convinti che non è tanto quanto tempo stai con i tuoi figli, ma come ci stai con i tuoi figli, ma soprattutto qual è l'esempio che dai ai tuoi figli. Quindi una mamma e quali stimoli porti? Una mamma non deve necessariamente passare in casa e rinunciare alla propria ambizione, la maggior parte del proprio tempo, ma quali stimoli e che qualità porti? Questo sembra un tema del secolo scorso e invece ci troviamo qua a discuterne, perché lei si è trovata, è talmente attuale questa problematica, si è trovata perfino a proporre le quote rosa come strumento correttivo nella scienza, come strumento poi da abbandonare una volta raggiunta probabilmente la parità dei sessi. Sì, allora, le quote rosa a me fanno venire proprio l'orticaria, io sono fra quelli che quando parlo di quote rosa sono a disagio, perché le quote rosa non piacciono, non siamo una specie da proteggere, non siamo, noi abbiamo diritto ad essere rappresentati al 50% in tutte le strutture, proprio perché abbiamo un approccio diverso. E qui mi ricollego a quello che diceva la collega amica Elisa Molinari e lo psicologo che lei ha intervistato all'inizio. Noi siamo diversi dagli uomini e abbiamo un approccio diverso, e questa diversità deve essere valorizzata, ma perché possa diventare stimolo per creare novità e innovazione, è necessario che noi abbiamo un ruolo, che siamo rappresentate nelle stanze di voto, tutto al 50%, perché altrimenti la nostra voce non viene sentita. E quindi le quote rosa, in questo momento non è così, il grafico Schitt-Siegel ci dice che i nostri colleghi uomini si incamminano dall'età dei 30 anni in poi verso una ascesa continua che li porterà ad essere rappresentati fino all'80% nelle posizioni apicali, parlo ovviamente dell'Accademia e parlo della situazione europea, e noi ci accontentiamo del 20%. No, non deve essere così. Noi dobbiamo essere, attenzione, questo grafico tra l'altro a disposizione di tutti se volete controllarlo, è molto interessante questo studio dell'Unione Europea, basta digitare She Figures e appare su Google, è impressionante, impressionante l'esercito di studentesse che si avvia all'inizio alle facoltà scientifiche e a facoltà ad alto contenuto tecnologico, e come poi la forbice si allarga, per cui nelle posizioni, come ha detto lei, apicali si trovi l'80% di uomini circa un 10-15 anni dopo, per cui si perdono intorno all'età dei 28-30 anni. Abbiamo parlato dell'egoismo delle donne che scelgono di non fare figli. Punto interrogativo, egoismo, ne abbiamo dibattuto proprio da questi microfoni, e si sta allargando sempre di più la quantità di persone che decidono di non fare figli. Lei invece ci sta spiegando una strada diversa, professoressa Torsi. Lei dice non c'è bisogno di rinunciare alla maternità, ma bisogna fare una rivoluzione copernicana in come la donna innanzitutto concepisce se stessa. E domando anche a lei, questo tipo di interventi, ha sentito quello svedese, quello americano sui giocattoli, oppure sull'utilizzo del pronome che deve essere neutro, l'eliminazione del rosa, questo tipo di interventi che i nostri ascoltatori stanno bocciando in massa con i loro SMS, secondo lei hanno qualche valore? Possono portare a smontare gli stereotipi, a aumentare l'autostima delle donne? No, direi di no. Io sono convinta che le differenze aiutino le differenze tutte, quelle di genere, quelle di cultura. Ecco, la cosa che volevo rimarcare a proposito delle donne che decidono di non avere figli, la mia posizione è quella che le donne devono scegliere di scegliere. Possono scegliere di avere figli, possono scegliere di non avere figli, possono scegliere di essere delle casalinghe, possono scegliere di essere delle professioniste. L'importante è che scelgano e che lo facciano seguendo quella che è la loro indole naturale e non i condizionamenti esterni. E questo, condizionamenti che le spinge a temere la sindrome, ci scrive Michele di Verona, del rimanere zitelle, ancora oggi nel 2013. Pronto Giuseppe, buongiorno. Pronto? Piacere sentirla, stamattina una discussione veramente interessante. E ci fa piacere sentire una voce maschile in questa discussione, Giuseppe. Ma guardi, la sentiremo proprio bene tra pochissimo, perché prima abbandoniamo la discussione per andare a controllare la situazione delle strade d'Italia. Tra poco. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ci ritroviamo qui a parlare di differenze di genere per capire se quello è il sentiero da seguire, quello dell'eliminazione delle differenze tra i due sessi. Voi come la pensate? 800 24 00 24. Torniamo al nostro ascoltatore, buongiorno, grazie per la pazienza. Giuseppe, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Caltanissetta. Sì, e qual è la sua idea rispetto all'approccio svedese e americano all'eliminazione dei generi? Ma per quanto riguarda il genere, dicevo poco fa alla signorina che mi ha chiesto, che comunque un bambino, così come potrebbe essere diciamo così, guidato da quelle che sono le forme stereotipate di noi adulti, è bene che queste forme, insomma, possano anche venir meno e dare possibilità alla creatività di questo bambino di esprimersi come meglio crede. Però per quanto riguarda la tipicizzazione sessuale, non si può fare a meno di dare delle risposte al bambino, così come il bambino nella sua creatività si esprime nelle sue necessità di conoscere se stesso e il mondo circostante. È chiaro che si esplora, si controlla, si tocca, conosce l'altra bambina o l'altro bambino, i bambini si spogliano, si toccano, si vedono. L'esplorazione del corpo, lei dice, porterà degli interrogativi inevitabili? È chiaro, quindi le forme istituzionali, quindi le forme educative, quindi le forme educative, così anche i genitori dovranno comunque dare le risposte, non potranno dire al bambino tu sei X o tu sei Y. La risposta che è stata data dalla famosa coppia canadese non è tu sei Y, ma sceglierai da grande. Giuseppe, grazie naturalmente per questa osservazione. Bisogna che le donne smettano di perdersi per strada. Questa è un'altra segnalazione di un ascoltatore al 349-238-6666. Sono molti gli uomini che stanno intervenendo a questa discussione. È giusto che le bimbe possano seguire le proprie inclinazioni, quindi ok se giocano col meccano e diventano ingegneri, mentre altre proposte sono folli, secondo un'altra ascoltatrice, credo proprio sia un'ascoltatrice. E devo chiedere se giocava col meccano inevitabilmente a un'altra eccellenza italiana che saluto, grazie per il suo tempo, professoressa Biscari. Buongiorno. Buongiorno a Caterina Biscari, ha lavorato per anni al CERN di Ginevra e ora è direttore delle Sincrotrone Alba di Barcellona. Questo è uno dei pochissimi acceleratori di questo tipo al mondo, dico bene? Sì, è una nuova generazione di sorgenti di luce di sincrotrone, ce ne sono simili una decina nel mondo. E noi siamo molto felici di avere la possibilità di parlare con lei, che ha raggiunto questi livelli e naturalmente è uno dei fiori all'occhiello della ricerca italiana nel mondo. Partiamo da una domanda personale però, perché vogliamo capire se queste impostazioni pedagogiche poi hanno un riflesso sulle scelte e sui risultati. Ma lei da piccola con le bambole giocava o preferiva il meccano? Certo. No, io giocavo con le bambole, giocavo con le bambole come tutte le bambine della mia età e penso che sia molto giusto che le bambine giochino con le bambole. Quello che sarebbe bello è che anche i bambini giocassero con le bambole e io penso che arriveranno a giocare con le bambole quando vedranno il proprio padre prendersi cura dei fratellini e allora emuleranno il padre e giocheranno con le bambole anche loro. Cioè non è che bisogna eliminare le differenze, bisogna arricchire le differenze. Bisogna, è vero, educare le bambine, le ragazze a seguire la propria strada, i propri desideri, come diceva l'intervento anteriore, cioè ogni persona deve essere libera di poter scegliere di diventare scienziata, casalinga, attrice o pittrice, ma la cosa importante è che anche i maschi siano coscienti di questo, cioè bisogna educare le bambine, ma bisogna educare soprattutto i maschi a riconoscere nelle proprie colleghe persone che hanno gli stessi diritti ed è lì soprattutto che bisogna incidere nell'educazione dei bimbi e delle bimbe, però mantenendo le differenze, perché è vero che siamo diversi, cioè la maternità per una donna è un'esperienza così magnifica e così necessaria in certi casi che non si può far finta che è una esperienza uguale a quella del maschio, è diversa. Quello che conta è che una volta che il bambino è nato ci sia l'appoggio dei due genitori nello stesso modo e soprattutto l'appoggio della società. Quello che è straordinario nel chiacchierare con queste donne che sono veramente avreste dovuto provare a chiacchierare a lungo al telefono come facciamo nelle pre-interviste, sono i punti di contatto e le tematiche sulle quali tutte tornano. Sia che abbiano figli, sia che figli abbiano deciso di non farne o non siano capitate, la solidarietà verso le altre donne impegnate nella ricerca e l'attenzione è un dato che è emerso in tutte queste, in tutti questi incontri. Ora lei, Caterina Biscaria, ha proposto pubblicamente di ribaltare un concetto. Lei dice: fare figli non è un'esperienza individuale, ma è un servizio reso alla società e dunque deve essere premiato. Anche quando si giudicano queste ricercatrici, quando si giudicano le loro pubblicazioni, non è giusto che permanga questo svantaggio dovuto al fatto che magari per un anno o due non si riesce a tenere il passo con le pubblicazioni. E quindi qual è la sua proposta esattamente per la valutazione delle donne? La mia proposta è per esempio che una donna, invece di lasciare dei vuoti durante certi anni della propria vita nel proprio curriculum, dica quell'anno lì io ho fatto un figlio, e questo sia un punto a favore proprio della persona, nella valutazione del curriculum e della storia della persona, perché è una ricchezza in più che ha quella persona. Naturalmente se una ricchezza anche professionale, chiedono i colleghi maschi? No, io ora questo tipo di è una ricchezza professionale, sicuramente è una ricchezza umana, quindi essendo una ricchezza umana è una ricchezza anche professionale. Cioè, quando un uomo agli alti livelli ha 2, 3, 4 figli, viene considerato fortunato, bravo perché ha i figli, ma normalmente ha i figli, e se sono soprattutto tanti, per i quali la cura viene tutta data alla moglie o alla compagna. Invece una donna che ha dei figli deve sempre trovare la giustificazione di come ha fatto a avere i figli, se è a un certo livello. Sì, e che poi naturalmente questa giustificazione è intrecciata anche col senso di colpa, perché poi subito le viene detto: ma li hai seguiti, li seguirai abbastanza, hai preferito la carriera, e frasi di questo genere che generano poi quel tipo di scoraggiamento registrato anche dal grafico di SheFigures, che porta molte persone a carriera avviata a lasciare perché a un certo punto non si potrà dedicare la stessa energia, la stessa attenzione alla crescita dei figli. Professoressa Molinari, lei che di figli per ragioni sue personali insomma non ne ha avuti, ha una grandissima attenzione invece a che le ragazze che lavorino con lei siano messe nella condizione di non privilegiare una scelta o l'altra. Cosa si può fare in pratica? Cosa fa lei? Ma io sì, sono molto orgogliosa del fatto che nel mio gruppo le ragazze si siano sentite, chi voleva, libere di averne, e anzi in generale ce li abbiano i figli. Mi ero anzi preoccupata di non fare la parte di quella che rappresentava un modello che scoraggiasse questo tipo di scelta. Quindi questo, io credo che quello che faccio è costruire un gruppo, dei gruppi di lavoro in cui le persone si sentano di collaborare in maniera collettiva a un progetto, e nel collaborare a un progetto ci sta che ci siano dei periodi in cui qualcuno è meno presente, ma ci sta anche il fatto che possano essere valorizzate delle modalità di contributo, delle energie che poi le persone tirano fuori qualche volta sorprendentemente proprio in questi momenti, e non tanto la quantità di ore, l'orario eccetera. Ci sono aspetti proprio di condizioni materiali, però soprattutto devo dire ci vuole una grande attenzione per le ragazze che hanno figli, ma anche per quelle che non le hanno, e per tutti direi, a chiedersi quali sono i meccanismi con cui le si può aiutare ad avere un buon curriculum. A volte le discriminazioni non sono discriminazioni intenzionali e negative, sono semplicemente cose che non vengono fatte. Per esempio, cioè lei ha fatto parte di una commissione che giudica questi curriculum dei ricercatori? Sì, in varie occasioni a livello europeo. E quello che so è che i curriculum vanno costruiti molto in anticipo e le ragazze devono essere molto consapevoli di come si costruiscono, ma devono anche essere aiutate. Per esempio, uno degli stereotipi è che se devo suggerire qualcuno per fare una relazione a un congresso importante, magari mi viene in mente anche a me lo stereotipo, diciamo, mi incoraggia a scegliere un uomo, perché quelli che hanno fatto quel tipo di interventi in passato erano uomini e tutti noi in qualche modo siamo succubi di qualche stereotipo. Dobbiamo cercare di esserne consapevoli e di ribaltarlo, lo dico per gli uomini e per le donne, quindi bisogna fare in modo che, insomma, agire sui meccanismi con cui le ragazze possano costruirsi un buon curriculum ben prima dei concorsi e indipendentemente dalla maternità. Cioè, non basta. E lei ha fatto notare proprio in commissione, di fronte a certi buchi di pubblicazione, a qualche buco, diciamo così, temporale, che in quel momento. Questo capita, insomma. Che in quel momento quel candidato era diventato mamma. Sì, c'è un buco nel curriculum, ma quella ha avuto un ragazzo. E normalmente quando uno lo segnala tutti dicono è vero, però normalmente invece non gli verrebbe in mente, quindi bisogna cercare di essere presenti e segnalarlo e anche inserire dei meccanismi di vario tipo, insomma, per cui si debba tenerne conto. Ma soprattutto bisogna fare in modo che di convincere noi stessi e le ragazze che per fare strada non basta essere brave e aspettare un riconoscimento, bisogna costruirsi un insieme di fatti, le pubblicazioni sulle riviste appropriate, la presenza nei congressi e anche la capacità di dimostrare autonomia, iniziativa, eccetera, tutta una serie di operazioni che naturalmente a volte non vengono incoraggiate o offerte alle ragazze. Fare questo sforzo e chiedersi ogni volta, forzarsi anche, perché non sempre viene spontaneo. Grazie a tutte voi, e anche in un ambiente al di sopra di ogni sospetto come quello della ricerca, come avete sentito, permangono dei meccanismi tali che spingono anche le eccellenze a firmare le pubblicazioni con le iniziali per non essere discriminate per il fatto di essere donna. Ma non è attraverso l'eliminazione del genere, ci sembra di capire anche dal vostro giudizio agli SMS, che si arriverà a un'uguaglianza effettiva. Altre le strade da percorrere, voi ce ne avete indicate alcune. Grazie ancora a tutti voi e grazie ai nostri ospiti, a Benedetta Acri, Alessandro Longoni, autori della trasmissione, a Paolo Corleoni in regia. Da Irene Zerbini, buona giornata.